Amici della settimana, vi abbiamo già fatto assistere a vari incontri di assi del colpo proibito, ma pensiamo che il nuovo repertorio di carezze energetiche che si scambiano questi due campioni possa ancora una volta interessarvi. Buon divertimento, amici! Benvenuti, nuova puntata di Lotto e suoi derivati, oggi in formato ridotto un po' speciale. Io sono Filippo Festuccia, come sempre, con me Alessio Garbini. Ciao a tutti. E dicevo puntata speciale, perché? Perché questa settimana purtroppo è morto Dusty Rhodes, che è uno, possiamo dire, Alessio, senza, vabbè, poi le classifiche sono sempre sterili, però se si parla dei 10 wrestler nordamericani fondamentali, c'è Dusty Rhodes. Sì, direi proprio, nel senso, considerando il periodo della sua massima attività, quindi gli anni 80, sicuramente da considerare tra i più importanti wrestler regionali dell'epoca. Esatto. Sicuramente in Florida era uno dei wrestler di punta, senza alcun dubbio. Poi c'è tutta la questione della vittoria del titolo NWA e Ric Flair, su cui magari torneremo poi dopo. Assolutamente, perché ci sono tante storie belle da raccontare su Dusty Rhodes. Beh, questa non è molto bella, però sì, ci ritorneremo. Bella nel senso di interessante. O interessante. Il lieto fine nel wrestling poco, devo dire, è un ambiente un po' così. E poi ricordiamo come, tornando al discorso della sua importanza, quando la Jim Crockett Promotion ritornò in diretta nazionale, sì, fu scelto lui come top face da contrapporre ai Four Horsemen. Esattamente. Quindi comunque è un ruolo di un certo spessore. Assolutamente. E parliamo poi di un wrestler, perché poi ci sta che uno, vedendolo negli ultimi anni, insomma, anche perché per vedere il Dusty Rhodes storico uno si deve andare a recuperare, che per carità è perfettamente possibile e fattibile, però richiede una certa dedizione andare a recuperare i vari filmati anni 80 e i vari show che comunque sono, ecco, non erano pay per view, poi sono stati pay per view, però parliamo comunque di, sì, del top, bar, esatto. Era sicuramente il top del wrestling americano, assieme alla WWF per un certo periodo anche sopra, senza problemi, insomma. E poi uno lo vede, diciamo, negli ultimi anni e dice, ma insomma, un vecchio ciccione. Lui era un giovane ciccione, cioè la build di Dusty Rhodes è rimasto abbastanza immutato negli anni. Sì. Questa è una delle sue grandi, infatti, forza. Una delle cose che fa abbastanza ridere è quelli che leggo adesso che si prendono gioco di Kevin Owens o di Bray Wyatt per il fisico e non si rendono conto di come uno dei più importanti della storia fosse Dusty Rhodes. Sì, esatto, cioè, che non è peggiorato, cioè lui anzi è anche dimagrito parecchio ultimamente. E tra l'altro mi viene da pensare che sia dimagrito proprio perché non stesse molto bene l'ultimo, sì, periodo. Lui aveva detto, ma sì, sto dimagrendo, gli stava dando una nota positiva, però sì, è vero che alla Hall of Fame non era parecchio diverso. Poi tra l'altro è morto per una circostanza, nel senso che per una caduta che ha portato a un problema ai reni, se non ho capito male. Che sono quelle circostanze accidentali, è morto giovane, 69 anni. Sì, diciamo, cioè, che per essere un wrestler è morto, esatto, vecchio. Esatto, però insomma, Dusty tra l'altro lascia due figli wrestler attivi, tranquillamente, anzi è nonno, credo, no? Era nonno. Mi pare che sì, Goldust sì, penso, abbia penso avuto dei figli, tra l'altro, no? Il meno pronosticabile della famiglia, però sì. Mi pare di sì. Credo anche di sì, ma lo controllo subito. Penso di sì, da Marlena forse. Ecco, parlavamo nelle scorse puntate di come non si sia concretizzata mai la storia della nuova generazione della famiglia Rhodes. O Runnels, insomma, perché poi Rhodes on screen, Runnels off screen. Questo rimane un pochino un peccato, però l'ultimo match... Sì, scusa, se ti interrompo, sì, ho controllato e... Goldust ha avuto una figlia da Terry. Ah, ecco. Che è del 94. E Cody è sposato con Eden. Sì, esatto. Non credo abbiano ancora figlia. Ancora no, anche perché Eden sarebbe stata... Sono sposati, tra l'altro. Eden, no? Sarebbe stata licenziata, se no. Sono sposati dal 2013. Quindi non è poco. Sì, WWE non è il posto più adatto per avere figli, onestamente. Però... Sì, ecco, l'ultimo match WWE di Dusty Rhodes è con i figli contro lo Shield. Non ricordo quando era, cos'era, 2013. Sì, era sì. Battleground. Ah, sì. Non mi ricordo assolutamente nulla di quel pay-per-view, però mi ricordo questa cosa. Che è stato credo l'ultimo momento in cui sembrava che stessero per spingere Sì. sui Rhodes o almeno su Cody, e Esattamente. poi è riscomparso, come Esatto, avevamo già esatto, detto in un precedente podcast, che è poi è riscomparso nel mid-carding dei tag team random. esatto. Sì, esatto. Cosa che ovviamente spiace. Vediamo, cinicamente è vero che il parente defunto poi ti porta un pochino a... Ah, tra l'altro è vero, siccome era nell'angolo dei due, non me lo dà come match su Cage Match. Vabbè, comunque sia. Sì, diciamo che ecco, cinicamente la speranza di un rilancio di Cody e Goldust la possiamo tranquillamente Sì, nel mettere. senso alla fin fine sfrutti l'onda emotiva, la WWE ha sempre fatto, quindi Esatto. diciamo che almeno stavolta non c'è il rischio di beccarsi un Chavo Guerrero che costa il titolo a Re Mysterio a caso, comunque una persona Sì. di buone possibilità di emergere, di diventare un nome quantomeno alto nell'uppercarding. Esatto. Tra l'altro il lancio che fu di Rey Mysterio fu proposto prima a Chavo Guerrero. Chavo rifiutò. Per fortuna. Per il bene di tutti, perché sarebbe stato se no Chavo Guerrero che vince la Rumble e Chavo Guerrero che vince. Diciamo che questo è un discorso che abbiamo già fatto tante volte, però hanno tutta la stessa identica costruzione di vittoria a culo. Sì. E Perché quella Rumble di Mysterio, se l'avesse fatta Chavo Guerrero, avrebbe avuto tutto il senso del anzi, forse mondo. avrebbe avuto ancora più senso, visto che comunque Mysterio Avrebbe era avuto il molto Giant più senso. Killer, no, non Era. era l'Underdog, cioè Esatto, esatto, esatto, quella esatto. Rumble fu orribile per la gestione di Mysterio steso per terra a non far niente per ore. Esatto, quello non lo aiutò decisamente, in più tutto quel discorso della title Sì, shot, è tutto il feud post che viene mandato invece di mandarlo contro gli Angoli, Benoit lo mandi contro gli Henry, Kali. vabbè. Sì, è sempre stato il modo preferito della WWE per affossare un campione, mandiamolo contro persone con cui farà schifo per forza, così Così siamo siamo a sicuri. posto. Esatto. La particolarità di Dusty Rhodes, noi vabbè, sviseremo un pochino, ma perché è in forma libera questo podcast. Particolarità sua è che, onestamente, mi sembra, adesso sto riguardando, è stato una parte importante in tutte le principali federazioni nordamericane, cioè non ne ha saltata una. Perché Sì. NWA, vabbè, ecco, guarda, andando proprio a rompere le palle. Non è stato in AWA. Sì. Sì, nei WWE no, non credo forse Vero. che neanche che abbia mai Non fatto un qualche incontro. è mai passato, è vero. Però, Sicuro, vabbè, beh, era un lui uomo comunque è stato NWA. tra i top name comunque nelle federazioni più importanti degli anni 70-80, cioè si è fatto, era quello, il wrestler più importante sotto Eddie e Mike Graham in Florida, che Sì. tradizionalmente fino all'81, se non mi ricordo male, cioè quando Eddie Graham si suicidò, era una delle federazioni più importanti del wrestling regionale. Poi passò in Assolutamente. Georgia, sotto Jim Crockett. Sì, insomma, è stato nel cuore dell'America che nell'85 di Gramma. Guarda, ho appena Ok. controllato, così diamo l'informazione esatta. Preciso. Sì, ecco, perché Dusty Rhodes è un mito? Perché il wrestling è sempre vissuto di grandi personaggi, di personaggi un po' sopra le righe, di personaggi un po'... come dicono gli americani, larger than life, più grandi della vita stessa, di comunque quasi caricatura in senso positivo. Uno dei grandi rivali nel ring di Dusty Rhodes era Ric Flair, che aveva ereditato il personaggio del Nature Boy e lo ha reso ancora più grande, un personaggio totalmente esagerato sull'idea del ricco, del successo, del sogno americano. Reso parodia nelle sue componenti più vane, più Sì, frivole. molto anni Dusty Rhodes è il 80, se possiamo contrario. dire. Poi Esattamente, il mio odio esattamente. verso Ronald Reagan e la sua politica lo lasciamo fuori. Sì, esatto. Ecco, Dusty Rhodes Invece, è se vero che non era è. Sì, esatto. l'opposto, Cioè, È come se fosse, alla fine, se tu pensi ad Dusty Rhodes, pensi soprattutto al suo feud con Ric Flair. Alla fine Esatto. erano due facce della stessa medaglia, cioè erano il sogno Assolutamente. americano, ma uno era la working class, l'eroe del popolo, cioè Dusty Rhodes, mentre l'altro era Esattamente. il nature boy, quello che spendeva, quello che aveva donne, fama, ricchezza, la versione più esagerata della stessa faccia. E Rhodes, con il fatto che raccontasse di essere il figlio di un idraulico, di arrivare dal sud, di essersi fatto il culo, eccetera, rappresentava un altro aspetto di questa visione del sogno americano. Esatto, ecco, se c'è un promo che per ammissione di tutti, Hard Times. esattamente Hard Times, nell'ottobre del 1985, il promo in cui riassume questa storia qui, dice Ric Flair, il titolo e la gloria appartiene a queste persone, ai lavoratori, ai figli di americani onesti, perché poi gran parte del personaggio di Flair era sì ricco e successo, con la scorciatoia. Ecco, il personaggio di Dusty Rhodes è sempre stato questo, il lavoratore che non accetta l'idea della scorciatoia. Diciamo che anche è uno di quei casi in cui è un pochino difficile da riraccontare, perché poi lo abbiamo ritrovato in gran parte dei face che poi abbiamo visto. Voglio dire, da un certo punto di vista, lo Stone Cold Steve Austin della rivalità con McMahon è una versione estrema di Dusty Rhodes. Sì, beh, volendo si può vedere in questo modo, insomma, il Sì, poi è chiaro che ci sono lavoratore, tante altre influenze, no? scusa? Però è chiaro che ci sono tante altre influenze, Vabbè, ovviamente, sì, tra cui dopo anche. 20 anni di storia, più o meno. Esatto, esattamente. Ecco, pure lo stesso John Cena ha qualcosa di Dusty Rhodes nelle tematiche che va a portare avanti. Poi anche lì è il risultato di una stratificazione di una serie di cose, e è anche vero che sono società americane diverse, però ecco, Dusty Rhodes rimane un personaggio proprio per i temi, per il modo in cui ha portato questi temi, che è un punto cardine del wrestling, soprattutto anni 70 e poi anni 80 anche, ovviamente. Però ecco, la particolarità di quella generazione lì è che è rimasta attiva e rilevante per tantissimi anni. Tra l'altro, non dimentichiamo che, cioè, oltre al personaggio, l'altra caratteristica importante di Dusty era la sua immensa capacità di poter raccontare una storia, cioè di poter far capire a chiunque fosse a vedere il suo incontro, sia in televisione che negli show in diretta, quello che lui stesse provando in quel preciso istante. Cioè, la sua espressione facciale, la sua mimica, il Assolutamente. suo modo di porsi era qualcosa che a quei livelli non si era praticamente mai visto. O che comunque era Assolutamente. qualcosa di nuovo, interessante. Esatto, poi è chiaro, non vorremmo ridurre Rhodes alla sua rivalità con Flair, anche perché entrambi sono stati più grandi di questo. Però è anche vero che si complementavano in modo assolutamente perfetto, perché questo è anche il grandissimo punto di forza di Flair, il motivo per cui Flair probabilmente, magari è la mia opinione che è un pochino schierata, però Flair si può dire che sia il più grande wrestler nordamericano per questo, perché Flair, grazie anche ai suoi grandissimi avversari, è riuscito a raccontare delle storie incredibili sul ring, ancora prima dei promo in Ah televisione. sì, assolutamente, cioè Flair è senza ombra di dubbio, se non il più grande, uno dei più grandi wrestler, non solo a livello americano, ma a livello No, mondiale. assolutamente, assolutamente. Cioè, la capacità di Flair di raccontare una storia in qualunque contesto fosse inserito, cioè basta vedere, non so, i racconti che ci sono anche quando combatteva contro Colon o Jack Veneno non a Puerto Rico, comunque in un'isola caraibica, eccetera, sono grandissime espressioni di come lui sapesse adattarsi a qualunque avversario, in qualunque momento, in qualunque contesto. In questo senso, Rhodes rimane uno di quelli con cui Flair si è complementato meglio. Quindi, ah, ecco, tra l'altro, guarda, scusa, ho trovato un aneddoto carino che stavo cercando cose particolari. Praticamente erano tempi totalmente diversi. La kayfabe, cioè la finzione narrativa, si manteneva sempre. no? 24/7, tutti i giorni, anche a casa. Per cui praticamente, questa l'ha raccontata Cody Rhodes, Dusty non trattava il wrestling come predeterminato neanche a casa. Quando i Four Horsemen gli ruppero la gamba, Dusty passò mesi a casa con il gesso e le stampelle. E lui dice, ecco, dice Cody, ci teneva così tanto che per lui un pubblico di due persone, i suoi figli, era la stessa cosa che un pubblico di un'arena. Quindi questo è un modo di fare wrestling che è assolutamente tipico non solo di quell'era, ma proprio della NWA, dei territori. Sì, è un concetto di wrestling che adesso non esiste più. Beh, per ovvi motivi, insomma, è anche, mi viene da dire, fortunatamente perché non sarebbe adatto ai tempi. Sì, Però ecco, rimane una forma di romanticismo anche che... se certi estremi anche dall'altra parte, come si sono Certo. visti, si potrebbero evitare. Però sì, diciamo che questo tipo di kayfabe forse sarebbe un po' troppo esagerata. Però Sì, se assolutamente. anche Però ecco, pensiamo qualche a volta una ci si decina potrebbe d'anni giocare dopo, perché... alla questione di Sandman accecato, e Sandman vuol dire CW Arena, un pubblico che oggi possiamo ritrovare nelle arene più smart come concetto. Assolutamente, Chicago, Esatto, c'è un e Sandman che quei rimane posti un là. mese chiuso in casa per vendere il fatto di essere rimasto accecato. Sì, esatto. Diciamo la particolarità di quella generazione, anni 70-80, che non ritroviamo spesso in quella degli anni 90, che poi è uno dei grandi boom del wrestling, e che per i Flair, i Rhodes e anche quelli venuti subito dopo, gli Steamboat, raccontare una storia era non solo il fulcro, ma veniva trattato a tutto tondo e ogni cosa aveva la stessa importanza. Il microfono, il ring, l'extra, era tutto parte di quello che c'è da fare per raggiungere l'obiettivo, che era far appassionare il pubblico a quello che tu stai raccontando. Mi viene da pensare, rispetto a loro, i grandi storyteller delle generazioni successive, anni 90 a livello poi di Major in particolare, non sono stati anche grandi wrestler. Ecco, questa è un po' l'unicità, secondo me, di Flair, Rhodes e quella generazione lì in generale. Sì, perché comunque diciamo che l'aspetto puramente diciamo di scientific wrestling, cioè di capacità comunque in ring sul quadrato di quella generazione era tutta una deriva da una tradizione che parte dai vari Gotch, Hackenschmidt, eccetera. Quindi comunque l'unire negli stati centrali soprattutto perché la WWF era già un discorso a parte già all'epoca, perché Sì. comunque era centrale essere un grande lottatore prima e poi un grande intrattenitore anche su altri aspetti. Assolutamente. Cioè, basta pensare a un Gorgeous George che negli anni 50 era un grandissimo atleta, un grandissimo intrattenitore che ha ispirato addirittura Muhammad Ali. Quindi Esatto. E questa capacità di creare l'elettricità nell'edificio, diciamo. Comunque con un tipo di racconto che rimane semplice, perché poi è questo che è il wrestling, al di là di tutte le legittimazioni che sono perfettamente comprensibili, però ecco, il wrestling è un racconto molto semplice, che si può fare anche senza parole, in effetti. Poi è vero che Dusty Rhodes era anche un grandissimo a raccontarlo con le parole, con il microfono. Però ecco, da questo punto di vista quello è un tipo di qualità che poi oggi non sarebbe neanche ripristinabile perché è il suo discorso. Ric Flair faceva i match da un'ora. Oggi è una cosa che non si può fare a quei livelli, no, si può infatti. fare in altri Beh, contesti. anche perché la questione del match di un'ora, che tra l'altro è uno dei motivi per cui Rhodes non ha mai avuto dei regni da campione lungo, perché non era in Esatto. grado di reggere quei tempi. E il motivo per cui Flair ha Fisicamente avuto, proprio. proprio fisicamente, e i motivi per cui Flair ha avuto così tanti regni e così tanto lunghi era per la sua immensa capacità di reggere un'ora, cioè lottare, mi ricordo una data in cui ha lottato nello stesso giorno un paio di match da un'ora in due parti opposte degli Stati Uniti, quindi con aereo annesso, eccetera. Sì, E comunque esatto. questo è un discorso legato alla realtà regionale, Cioè il fatto che io, campione, vado a sfidare il tuo idolo di casa e non lo sconfiggo, anzi, do l'illusione che lui possa aver vinto, che poi ha Assolutamente, creato un questo sacco è. di casini nella storia, questa illusione, Sì, perché come... abbiamo qualsiasi tipo di querela Sì, sui titoli. cioè, il titolo WWF è nato così. E non solo il titolo WWF col regno famoso lunghissimo di San Martino ha quel problemino lì in Giappone. O non era in Giappone? Per me era in Intendi Giappone. i Nocchi? Sì. Ah, però era Buckland, Sì. era il regno di Ah, è Buckland. vero, scusa, non era in Giappone, era con un evento Era crossover con i giapponesi. praticamente la questione è che lui, Inoki, ha vinto il titolo in Giappone e avrebbe dovuto perderlo al Garden, solo che il match al Garden sarebbe andato in onda anche in Giappone. Quindi fece quella specie di screw job per fare in modo che il match finisse per, non mi ricordo se squalifico, per count out, e lui rimanesse campione. Poi trovarono un Sì. Sì, accordo e quel titolo divenne il martial art, WWF martial art qualcosa. esatto. E per cui rimane poi nella storia con questo famoso e leggendario regno di Bruno Sammartino, che poi appunto in realtà non fu così lungo, cioè poi per carità lui era indiscutibilmente il volto non solo della WWF, ma del Nord-Est degli Stati Uniti Sì. sicuramente. Anche perché all'epoca la Georgia e la Mid-Atlantic non erano, che per chi ovviamente non è molto, diciamo, a conoscenza dei termini, della geografia del wrestling regionale, la Georgia Mid-Atlantic è di fatto la WCW, più o Sì, meno. esatto. Non Esatto, erano parte da all'epoca, lì e poi. esatto, all'epoca non erano comunque dei territori molto grandi, all'epoca gli si preferivano l'AWA, il sud con Sì, esatto. il territorio di Memphis, Knoxville, Esattamente. San Tra l'altro, Francisco, St. Louis, queste erano più o meno le zone più. proposito di. Ecco, quei territori là, perché poi oltre Dusty Rhodes è stato un'icona della NWA, un'icona della WCW, si riuscì a imporre in WWF e poi lo raccontiamo, nonostante gli misero, penso, qualsiasi tipo di ostacolo possibile. Tra l'altro, non so se sai l'aneddoto per cui il Virgil, la guardia del corpo di Sì. Ted DiBiase, fu chiamata così per prendere in giro proprio Dusty Rhodes, perché Virgil è il suo vero nome. È il suo vero nome, esattamente. Poi ecco, torniamo un pochino dopo su Dusty Rhodes in WWF. E la particolarità su quel discorso lì che stiamo facendo delle regionalità degli Stati Uniti, che sono comunque divisioni che si osservano ancora oggi nel pubblico. Ecco, quando parliamo del pubblico smart in determinate zone, e quando dicevamo, ecco, parlavamo settimana scorsa Costa Ovest, della differenza tra Costa Ovest Non e Costa solo, Est. non solo, parlavamo del finale di Elimination Chamber del match per il titolo con la Dusty Finish. Stiamo aprendo 2000 parentesi, ma ne vale la pena. Fatta a Corpus Christi, che è un tipo di pubblico che reagisce in un certo modo. Quel cuore lì dell'America è un tipo di pubblico totalmente diverso dalle coste. La TNA nasce in quel cuore lì, perché la TNA, lo ricordavamo settimana scorsa, è di Nashville. Dusty Rhodes è una delle chiavi per far percepire inizialmente la TNA come legittima. Ecco, Dusty Rhodes ha fatto 2 anni, 2 anni e mezzo in TNA, ovviamente non era un wrestler perché parliamo del 2003, Rivestiva però un ruolo ecco tipo di commissioner con le esattamente era. elezioni. Mi ricordo il segmento delle elezioni in concomitanza con le elezioni presidenziali del 2004, con in 2004, sì, è mezzo nel. Guarda, Struss. novembre 2004 divenne il direttore dell'Authority, no, leggendo testuale, a Victory Road, cioè l'ha fatta in pay-per-view, sta cagata, Sì. vabbè, lasciamo stare. E Russo non TNA, bucava, eh? ragazzi. Se era già No, andato come Booker bucava all'epoca. Rhodes, bucava proprio Dusty, E sulle tra capacità l'altro. di Booker di Rhodes ce ne sarebbe da dire, visto che era già vecchio negli anni 80, ma questo. Esatto, E bucava, adesso ed è ci lui quello che arriviamo. buca NXT, bucava NXT, aperte e chiusa Esatto, parentesi. Ed è il motivo per cui NXT è aperte e chiuse programmato parentesi. dagli anni 70. chiusa parentesi. Esattamente, esatto. Sì, poi guarda, perché siccome sei sul Dusty Rhodes Wrestler c'è da parlare benissimo per secoli, però poi qualcosina di male possiamo anche dirla, che è anche bello. Dicevamo della Dusty Finish. Ecco, la Dusty Finish è una delle cose, diciamo dei trope, delle particolarità storiche del wrestling americano. Non a caso l'inventore non è stato Dusty, ma è stata una persona che abbiamo già citato, Eddie Graham. In che cosa consiste la Dusty Finish? L'abbiamo visto settimana scorsa. Cioè, un wrestler vince e spesso è lo sfidante per il titolo. È diciamo il modo in cui ha più senso che sia così. Lo sfidante vince, ma la decisione viene ribaltata per, diciamo, una minuzia di regolamento o un dettaglio che magari era sfuggito, che può essere una squalifica. Spesso è una squalifica. Dusty Rhodes l'ha usata molto, molto, molto, molto quando scriveva anche i suoi match. Rimane una di quelle cose, ecco, da wrestling vecchio stile, con cui tu saggi il terreno, vedi, ma il pubblico come reagisce, cosa che nell'epoca dei territori era assolutamente fondamentale. Sì, poi aveva anche un discorso di protezione, il discorso che facevamo prima di proteggere il tuo eroe locale. Assolutamente, assolutamente sì. Perché ovviamente se l'eroe locale viene umiliato facilmente dal campione, tu spettatore non vai più a vedere questo tuo eroe, che tanto chi se ne frega. Esatto, dice, bah, basta, è una pippa, via. Il problema della Dusty Finish e di tutto questo modo di pensare al wrestling poi è stata la televisione, perché appunto se è uno show in un territorio, quindi è uno show locale, quindi è uno show live, lo fai e hai quel tipo di reazione, certo non se lo fai ogni singola volta, però ce l'hai. In televisione la fai una volta, 2 volte in un anno, già la gente comincia a stufarsi. E questo a questo punto ci dà la possibilità di andare ad aprire quel discorso. Dusty Rhodes come Booker, è vero, lui crede fondamentalmente nella necessità di raccontare la storia. Questo fa sì che fondamentalmente sia uno show con un senso, però è vero che non ha mai avuto una spinta verso la modernità, anzi. Anzi, beh, adesso il caso più recente è sicuramente NXT, dove se si paragona le puntate di inizio di questa, diciamo, nuova avventura di NXT come quasi un roster a parte, non più come un reality show come all'inizio, si vede nettamente la differenza con l'NXT di oggi. Era un NXT dove era molto simile a un prodotto anni 70, anni 80. C'è il campione, match, match, match, il campione fa magari il promo, un segmentino così e via. Poi anche adesso comunque NXT sente, risente, o risentiva, adesso vedremo, comunque della mano di Dusty Rhodes, perché comunque la struttura era quella. La differenza era che l'aggiunta di, non mi ricordo come si chiami il booker attuale di NXT, Adesso te lo che cerco non mi subito. ricordo, che comunque lui aggiungeva lo spessore alle storie, quindi dava un senso di modernità, che, diciamolo, comunque NXT funziona proprio per questo, perché comunque è un prodotto differente, è un prodotto che si discosta da quello WWE classico e ammicca un po' sia al pubblico di una volta che al pubblico che è più interessato alle federazioni indipendenti. Esatto, parliamo del Ryan Ward. Come capo Sì, del esatto. creative, esattamente. Lui. Sì, ecco, diciamo che poi è anche vero che quel tipo di wrestling dei territori, ecco, rimane, cioè è forse una delle grandissime ispirazioni dietro al modo di fare wrestling, ad esempio della Ring of Honor di una decina di anni fa. Poi è chiaro che ci sono delle situazioni in mezzo, perché è stato discorso che non si può parlare di wrestling indipendente americano senza parlare di ECW. Beh, comunque si può tenere conto del fatto che il wrestling indipendente è una continuazione del wrestling regionale, Esattamente. perché comunque le federazioni indipendenti più note, come non so, una Ring of Honor, una Chikara, una Una Pro Wrestling Guerrilla, Guerriglia, esatto. esatto, sono comunque di ampio respiro, sono diciamo indipendenti ma di alta fascia, cioè sono federazioni che sono non solo nazionali, ma a volte addirittura globali. Basta Sì, pensare sì, sì. che la Beh, la Ring CZW of Honor ha ha. fatto due show in Italia, per Esatto, dire. Tra l'altro, il titolo Ring of Honor ora è mondiale, no? In con teoria, tutti i parametri se, del titolo mondiale, l'hanno usiamo i difeso pure in parametri Giappone. del PvE, era già mondiale nel 2003, Ah, perché beh, certo. c'erano stati quei show collaborazione con la Frontier Wrestling Academy in Inghilterra, dove Joe aveva difeso il titolo, e infatti Certo. da lì c'erano poi state tutta una serie di promo, eccetera, dove si parlava del titolo Ring of Honor, che grazie a Joe era diventato mondiale, eccetera. Certo, diciamo che ora non abbiamo più dubbi, nel senso che sì, ah, sono in TV tutte le settimane, sì, è stato difeso in sono, Giappone. siamo, esatto, siamo criteri, ci sono i pay-per-view, ci sono gli house show, ci sono, c'è la TV nazionale, quindi sì. Ora E diciamo appunto, che appunto le può essere considerato tale a tutti gli effetti. Esatto. Per cui ecco, ci sono create queste realtà che sono un pochino più grosse, però sì, per tutti gli anni zero il circuito indipendente, proprio per la sua natura di circuito, era molto simile alla situazione sì. dei territori, perché c'è. Appunto c'erano. Ecco, quello che mancava era ovviamente quella che fu la grandissima intuizione della NWA, che era il banner unico. Sì. Il cappello sotto cui c'è, sì, c'è da dire che hanno provato. L'NWA comunque non è mai morta come concetto. Anche sì, se è morta nel 94, ma questo è un altro discorso. Il problema è che ovviamente, essendo una realtà morta, morente, con tutto il discorso che il famoso promo di Shane Douglas fece sul titolo ECW dopo che lo vinse, il titolo NWA dopo che lo vinse, comunque l'ha di fatto distrutta, l'ha reso una, neanche una federazione, un corpo inutile. Sì, sì, sì, sì. Che infatti anche esiste, adesso esiste, raccoglie sotto di sé delle federazioni di quarto, quinto ordine, che anzi, una volta che si fanno un nome grazie all'NWA, se ne staccano. Staccano. C'era la, mi viene molto in mente la NWA on Fire, che adesso è diventata la Wrestling on Fire, federazione minore del qualche stato centrale, non mi ricordo se Michigan o West Virginia. Comunque. Sì, ecco, no, non serve neanche che siano particolarmente grandi per poi potersi staccare, assolutamente. No, no. Assolutamente. Diciamo questo del prodotto di NXT, tra l'altro, facendo un attimo una pedalata indietro, rimane molto particolare, è un prodotto che è fondamentalmente un pochino anziano nella sua costruzione, che rispetto al prodotto del main roster attuale sembra anzi un pochino fresco, però. Beh, è comunque un prodotto diverso dal prodotto mainstream in senso questo stretto. Senz'altro. Però, se tu vai a vedere che cosa funziona oggi nelle federazioni indipendenti, ti accorgi che è un prodotto che andava bene 10 anni fa. Sì, nel sì, senso, assolutamente. Adesso cosa va di moda? Va di moda tantissimo lo strong style finto giapponese. Questo, che poi esatto. È quello su cui la New Japan adesso si sta concentrando, che chiunque si ascolti qua, che ha iniziato a guardare la New Japan da 2 o 3 anni, sappia che quello che sta vedendo non è il wrestling della New Japan. È una versione fatta per far abboccare gli americani. Tant'è che hanno avuto un successo tremendo. Esatto, e hanno gli show che vanno in onda col commento in americano. Cioè, commento gran, in inglese. Gran coppia di commentatori, tra l'altro. Che non mi ricordo chi sono, scusami. Neanch'io, sinceramente. Ah, ecco! È anche vero che, non lo so, forse la TNA di Dusty era un pochino più sul pezzo. Da quel punto di vista, proprio come stile poi proposto, era, non si discostava tantissimo da quello che era in quel momento il fenomeno indie. Sì, alla fine i vari AJ Styles, i vari Daniels, esatto. Comunque erano pushati nella gestione, diciamo, Dusty Rhodes, Scott D'Amore, erano pushati molto sullo stile di un indipendente. E anzi, sì. Il fatto che non ebbero presa sul pubblico tipico delle federazioni indipendenti, è sempre stato un cruccio per la TNA dell'epoca, che anzi sperava di trovare uno spiraglio, sì, esatto. Qualcosa nel prendere quel tipo di pubblico. La TNA, e questo rimane anche un discorso, se vogliamo, legato alla presenza di Rhodes, è sempre stata a metà tra voler essere la nuova ECW e la nuova WCW. Sì, beh, quello sì, sicuramente. Poi a momenti era più verso un versante, a momenti verso l'altro, però ma sì. Stesso nello stesso show, nel senso che ah, c'era sì. Appunto, c'era Abyss e c'era Sting. Mm-mm. E questa era, se vogliamo, però l'unicità del prodotto TNA, che ha avuto tantissimo, cioè tantissimo, ha avuto un successo assolutamente importante per tanti anni. Beh, sì, comunque il periodo 2007-2009 era forse uno dei più innovativi nella TV Assolutamente. mainstream Esatto. per il Poi, concetto di wrestling. certo, era, sempre citando Boccia Mania, era una sofferenza continua, perché succedeva qualsiasi cosa e poche cose avevano un senso. Però le cose che giravano, giravano bene. Questo in un periodo in cui la WWE era la noia mortale, Ah, sì. perché invece non succedeva niente. Era una specie di criostasi, era tipo Fry quando si consegna la pizza, sbatte e rimane chiuso per 1000 anni. Cioè, la WWE Sì, era rimasta così. era nella paura col senato che gli stava attaccato al culo e la paura quindi di fare qualunque cosa potesse provocare danni a livello congressuale, in sostanza. Sì, esatto. Tra l'altro, Rhodes si impegnò fondamentalmente dopo la fine, ovviamente, delle esperienze WCW. Lui fece anche una comparsata in ECW. Nel Interessante. 2000, mi pare. Sì, mi sembra che l'anno fosse quello. Diciamo, aprendo un rapporto con Steve Corino, che poi, diciamo, che si portò avanti abbastanza negli anni zero. Appunto, Dusty si impegnò anche, diciamo, a portare il suo nome, la sua presenza nel circuito indie, in Ring of Honor, in cos'era, in Hustle, beh, poi altre federazioni locali più piccole. Ecco, diciamo che ci sono i due tipi di federazioni indipendenti, anzi, i tre tipi di federazioni indipendenti in America. Sono le indipendenti fighe. Sono quelle tipo Ring of Honor, Guerrilla, Evolve, che sono quelle un pochino più innovative che riescono a attirare talenti. Poi ci sono le indipendenti coi vecchi, che sono tante, e le indipendenti con gli scarsi. Dusty Rhodes, le prime due categorie le ha passate un po' tutte. Oltre a questa sua attività, ecco, non eravamo arrivati a parlare di Dusty Rhodes in WWF, in cui il suo personaggio dell'uomo comune fu, diciamo, preso un po' esagerato, ecco, Sì, parecchio. era quasi più una presa in giro che Esatto. un vero e proprio personaggio, anche perché comunque, come avevamo già detto prima, già era il personaggio di Virgil, la guardia del corpo di Ted DiBiase, era già una presa in giro di Dusty Rhodes. E questo personaggio che gli fu Esatto. dato, comunque, era una parodia di quello che aveva interpretato per anni. E questo fu comunque dovuto al fatto che Rhodes avesse le strade tagliate all'epoca. Esatto, perché la situazione della NWA era abbastanza precipitata. Sì, più che precipitata, diciamo che la Jim Crockett Promotion, che era quella che aveva di fatto ereditato tutto i territori maggiori Lo dell'NWA, storico, quasi sì. tutti, diciamo, mancava un po' il Texas, che però era già uscito, vabbè, diciamo, i territori più importanti, cercando di fare una tattica sullo stile di quella della WWF, perché era andata quasi in bancarotta. Quindi furono costretti a vendere tutto a Ted Turner, e diciamo che poi da questo è quello che poi porterà alla nascita della WCW. A quel punto, a Starrcade 88, Rhodes era sia Booker che era in un feudo con i Legion of Doom, e decide di Sì. fare questo segmento dove con uno degli spuntoni di Legion of Doom, non mi ricordo se o Animal o Hawk, comunque uno dei due, inizia a colpire ripetutamente sul sopracciglio Rhodes, che si apre e inizia a sanguinare. Questo segmento non fu ben visto da Turner, che di fatto licenziò Esatto. Rhodes. Si dice che questo fosse anche dovuto al fatto che Flair volesse avere il posto di Booker, cosa che poi di fatto successe, Sì, però. però insomma, è la solita problematica nel wrestling, comunque è vero che è un ambiente carico di situazioni politiche nel backstage, è anche vero che se prendiamo una situazione di questo tipo, dal punto di vista di Flair, non ci si mette niente a dire guarda che questa cosa qui che sta facendo lui non è adatta, probabilmente è anche vero, non lo so, dipende da quello che vuole Turner. Per cui insomma, poi il risultato è stato questo. Ecco, Rhodes si trova in WWF. La maggior parte Purtroppo delle foto che poi si vedono di Dusty Rhodes sono di questo Sì, periodo, purtroppo sì, quelle col con quel costume, costume a col pua costume. gialli. Esatto. Per cui si ha questa idea di un Rhodes come personaggio un po' ridicolo, ecco, non è ovviamente il Dusty Rhodes in sé, però riuscì comunque ad affermarsi in un certo modo in WWF, non ai Comunque è il solito livelli. discorso, se hai carisma puoi essere Zack Ryder, ma vai over. Sì, assolutamente. Diciamo che se vogliamo questo è il grande rimpianto legato da Dusty Rhodes, la sua transizione verso gli anni 90, che è stata come wrestler non semplicissima, però pure lì il discorso è questo, non parliamo del wrestler degli anni 80, parliamo di uno che è stato grandissimo dagli anni 70, quindi chiedergli di abbracciare 3 decadi così forse è anche chiedere troppo alla sua storia, alla sua Sì, carriera. alla fine gli unici che hanno abbracciato 3 decadi to court sono Hogan, Flair, Flair, Inoki. in parte Undertaker se contiamo gli anni 10, in Volendo. cui comunque è stato un Sì, però. part-timer, però lasciando il Sì. segno, ma assolutamente in modo spesso Anche profondo. Inoki è un altro, mi viene in mente. Inoki, certo. Beh, poi ovviamente restando sull'era televisiva, perché poi se andiamo a parlare di prima, beh, sono magari ecco, nomi che vengono fuori, sono molti di più. Parlavamo di Vern Gagne qualche Ah, settimana beh, sì, fa. beh, Gagne. Va da sé che in quel periodo era quasi la norma per i grandi nomi avere quel tipo di durata della carriera. Sì, anche perché poi comunque diventavi una specie di azionista nel territorio, nel tuo territorio. Esatto. Quindi, ad esempio, Dory Funk Senior, che poi Sì. passò ai figli. Sì, esatto. Ecco, forse è anche vero che il carisma, la presenza, l'efficacia di Dusty Rhodes vive poi per essere espressa sul ring, cioè Dusty Rhodes come personaggio totalmente fuori ring non è che mi abbia mai fatto impazzire, ti confesso. Solo, cioè, quando è stato commissioner puro, diciamo. Sì, no, beh, le Fatto il suo, perché per fasi carità, nelle però. ultime quando ha accompagnato Cody, ad esempio mi ricordo nel feud con Orton nel 2007, credo, quello che poi portò Sì, dovrebbe al essere per il. Texas Bullrope Match, Esatto, che sì, non era mi ricordo poi 2007. come l'avessero chiamato all'epoca, perché quel match lì ogni tanto la WWF cambia Sì, nome ogni volta che lo ripropone. Che poi esatto. è una delle caratteristiche tipiche di Rhodes, quel match, tra l'altro. Sì, Ricordo che uno dei pochi esatto. incontri in E. WWF sotto Vince Senior fu proprio contro il superstar Billy Graham nel 78 e fu un Texas Bullrope Match al Madison Square Garden e fece Assolutamente. tipo 2 mesi di apparizione. Questo per far capire comunque che Rhodes fosse un grandissimo nome già all'epoca. Assolutamente, assolutamente, per questo dicevo, ecco, uno, diciamo che è molto più facile ovviamente andare a recuperare i materiali dell'era TV, però molti di questi wrestler hanno tanta storia prima, in maniera totalmente diversa perché invece parliamo lì totalmente di era TV, ma parlavo su Reddit con utenti che sostenevano sì, la WCW ha inventato Sting, che insomma sì, l'ha reso un'icona se vogliamo, ma Sting era main eventer quasi 10 anni prima. Poi Sì, nel Mid-South di Bill Watts. 87-88 lui era main eventer Oh, sì, NWA. 86, poi il discorso che facevamo prima, che Jim Crockett comprò la UWF e quindi si prese i Esatto. contratti di Sting, eccetera, che poi passarono a Turner quando poi comprò tutto. Ecco, alla fine quello che rimane di Dusty Rhodes sono le storie raccontate. Gran parte delle sue sfide con Flair sono da recuperare Sì, sicuramente. Nel senso che parliamo di perle assoluto. assolute del wrestling. Il feud con Four Horsemen è grandioso, che tra l'altro era Assolutamente comunque strutturato per lanciare più persone contemporanea. Cioè c'era anche Magnum TA che poi ebbe quella tragedia che gli stroncò sì. Sì. la carriera. Purtroppo perché parliamo di uno che sarebbe stato un nome enorme del Sì. wrestling negli anni successivi. Assolutamente sì. È uno, quello considerato uno dei più grandi rimpianti del wrestling Era nordamericano. considerato il Ric Flair, il possibile Ric Flair degli anni 90, comunque. Esatto. Perché l'incidente avvenne nell'85. 86, giù di lì, e avrebbe dovuto vincere il titolo degli Stati Uniti, che nel circuito NWA era il titolo del, era il titolo del, della regione del Mid-Atlantic, era il più importante, ed era il simbolo del prossimo campione. Esatto, esatto, era la rampa. Esatto, era, era un po' come il Money in the Bank, una Rumble oggi, se vogliamo fare un esempio. Sì, sì, sì, e comunque perché significava avere la possibilità sia di avere match 24 giorni, anche di girare un pochino di più e andare a fare difese. E degli anni 70 di Rhodes, un preferito? Impossibile sceglierne uno, però uno. I tenne d'incontro? Sì. E quello che citavo prima, il Texas Death con Billy Graham. Sì, Texas Bullwhip. Sì, anche perché comunque all'epoca, cioè dell'epoca trovi e non trovi più che altro, però... Certo, è quello, è quello, è quello. Questo qua è comunque essendo il, del Garden, al Madison Square Garden si trova. Esatto, esatto. Per cui c'è cioè, comunque una facilità da questo punto di vista. Bene, detto questo, e sono ovviamente qualsiasi cosa che potessi recuperare... Rose non ha avuto tanti brutti match in carriera, per cui quello che uno trova, trova spesso, perché soprattutto se parliamo di anni 80, penso forse negli anni 80 non ha mai sbagliato un match Rose. Così poi, adesso, adesso magari mi citano l'evento a circuito chiuso del settembre dell'83 che ha fatto schifo, ma non lo so, non l'ho mai visto. Rimane un grande nome. Uno dei tanti grandi nomi del wrestling che ovviamente purtroppo ci lascia, anche qui devo dire per circostanze più legate alla sua salute, neanche al wrestling, proprio a come era fatto lui fisicamente in effetti, perché quello è sempre stato un po', se vogliamo, il suo limite. E questa era la nostra puntata speciale dedicata a lui. Settimana prossima torniamo con delle notizie, anche perché vorrei cercare di capire con un pochino più di calma cosa sta succedendo tra la WWE e la Ring of Honor. Sì, e la WNN, il discorso con l'Evolve, eccetera, Sapolsky, una situazione un po' da indagare, capire meglio cosa sta succedendo. Esattamente. Per cui noi ci ritroveremo settimana prossima, io ti ringrazio Alessio per aver fatto con me questo ricordo di Dusty. Okay, grazie a te per comunque l'opportunità. Assolutamente, e alla prossima, ciao! Ciao!